Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Mentre semisdraiato facevo scorrere lo sguardo lungo il petto fino alle gambe, osservai i piccoli scatti del mio piede a ogni pulsazione. Mi rizzai, mi guardai i piedi e provai una sensazione fantastica, ignota. Un fremito strano, sottile, mi vibrava nei nervi come un brivido di luce. Guardandomi le scarpe, ebbi l'impressione di aver ritrovato dei cari conoscenti e di aver riconquistato una parte di me stesso che mi era stata sottratta. Un senso di riconoscimento mi tremò nell'anima, gli occhi mi si empirono di lacrime e le mie scarpe mandarono quasi un sommesso bisbiglio. «Debolezza», dissi aspramente fra me, stringendo i pugni ripetei «debolezza». Cominciai a infuriarmi contro me stesso per quelle sensazioni ridicole da cui mi ero lasciato consapevolmente sopraffare. Parlavo con asprezza e stringevo le palpebre con forza per liberarmi dalle lacrime. Quasi non avessi mai visto le mie scarpe, mi accinsi a studiarne l'aspetto, la mimica al movimento del piede, la forma, la tomaia lacera, e feci la scoperta che le loro pieghe e le cuciture bianche avevano un'espressione, una fisionomia. Un po' della mia natura si era comunicata a quelle scarpe. Esse mi impressionavano come fossero state un'ombra del mio io, una parte viva di me stesso. Rimasi così per un bel po', forse un'ora intera, preso da queste sensazioni. Infine arrivò un vecchietto che sedette all'altro capo della panchina e ansava faticosamente, forse per la camminata, e andava ripetendo già, sicuro, già. Udendo quella voce ebbi l'impressione che un turbine mi attraversasse il cervello. Smisi di guardare le scarpe. Mi pareva quasi che la confusione che mi aveva sconvolto fosse una cosa di tempi lontani che risalisse a uno o due anni addietro e fosse già sul punto di spegnersi nella mia memoria. E incominciai a osservare il vecchio. Che mi importava di costui? Niente affatto. Notai soltanto che aveva in mano un giornale, un vecchio numero con la pagina pubblicitaria all'esterno. Pareva vi avesse involto qualche cosa. Incuriosito, non riuscivo a staccare lo sguardo da quel giornale. Mi venne l'idea folle che potesse essere un giornale straordinario, meraviglioso, unico nel suo genere. E poiché la mia curiosità andava crescendo, incominciai a dimenarmi sulla panchina. Potevano essere documenti, atti pericolosi rubati da un archivio, e mi balenò l'idea, non so, di un trattato segreto, di una congiura. Il vecchio seguiva i suoi pensieri. Perché non portava il giornale come fanno tutti gli altri con la testata all'esterno? Che mistero era quello? Aveva l'aria di non voler mollare quel pacchetto per nessuna cosa al mondo. Forse non osava neanche affidarlo alle proprie tasche. Avrei giurato che sotto ci covava qualche cosa. Mi concentrai. Il fatto che fosse impossibile risolvere quell'enigma misterioso mi faceva impazzire dalla curiosità. Mi frugai nelle tasche per dare qualcosa a quell'uomo e attaccar discorso, e mi trovai fra le mani l'abbonamento del barbiere, ma lo nascosi subito. A un tratto decisi di fare lo sfrontato e, battendo sulla tasca esterna della giacca, dissi: «Posso offrirvi una sigaretta?» «No, grazie». L'uomo non fumava, aveva dovuto smettere per risparmiarsi gli occhi, era quasi cieco. «Tante grazie. Soffrite agli occhi da molto tempo, forse non potete leggere nemmeno il giornale, purtroppo. Il vecchio si volse verso di me I suoi occhi sembravano ricoperti da una pellicina sottile che dava loro un aspetto vitreo. Lo sguardo era bianco e faceva un'impressione disgustosa. «Siete forestiero?» domandò. «Sì, e non riuscite neanche a leggere il titolo del giornale che tenete in mano? A malapena!» Del resto aveva capito subito che ero forestiero dalla cadenza delle parole. Per lui era facile perché aveva l'udito acuto. Di notte, mentre tutti dormivano, egli sentiva il respiro delle persone nella stanza attigua. «A proposito, dove abitate?» Immediatamente mi trovai in testa una bugia bella e pronta. Mentendo istintivamente, senza intenzione, senza secondi fini, risposi: «In piazza Sankt Olav, numero 2». «Davvero?» Quell'uomo conosceva tutte le pietre del lastrico di quella piazza. Una fontana zampillante, alcuni fanali a gas, un paio d'alberi, ricordava bene. «A che numero abitate?» Per finirla mi alzai, spinto all'estremo dalla mia idea fissa circa il giornale. Bisognava chiarire il mistero a qualunque costo. «Se non potete leggere il giornale, perché allora al numero 2 avete detto, mi pare», continuò l'altro senza notare la mia inquietudine. «A suo tempo conoscevo tutti gli inquilini del numero 2. Chi è il vostro padrone di casa?» Inventai un nome lì per liquidare la questione e lo buttai fuori per liberarmi da quella tortura. «Appulati!» dissi. «Già, Appulati!» fece quello ripetendo esattamente il nome. Lo guardai stupefatto. Era serio, serio e pensieroso. Avevo appena pronunciato lo stupido nome che mi era venuto in mente e quello si accontentava come se l'avesse già udito. Intanto aveva deposto il pacchetto sulla panchina e io mi sentivo vibrare i nervi dalla curiosità. Osservai che il giornale aveva qualche macchia di unto. «Il vostro padrone è marinaio, vero?» domandò il vecchio. Nella sua voce non c'era nemmeno una punta di ironia. «Mi pare, se non erro, che fosse marinaio». «Marinaio? Scusate, quello che conoscete voi deve essere il fratello. Quello che dico io è l'agente Ilunga A. Appulati». Così credevo di liberarmene. L'altro invece accettò volentieri la conversazione. «Ho sentito dire che è un brav'uomo», disse quasi allungando le antenne. «Ah, è un uomo astuto», risposi. «Ottimo commerciante, testa fina. Fa il rappresentante di non so quante cose: mirtillo rosso in Cina, piume e piumini in Russia, pelli, cellulosa, inchiostri». «Perbacco», interruppe il vecchio con molta vivacità. La cosa incominciava a diventare interessante. Mi lasciai prendere dalla situazione e cominciai a raccontare una menzogna dietro l'altra. Mi rimisi a sedere, dimenticai il giornale con tutti gli strani documenti, mi infervorai e gli troncai la parola sulle labbra. La credulità del vecchietto mi faceva ardito e disposto a seppellirlo sotto un cumulo di bugie. Non aveva sentito parlare del libro da messa elettrico che Appulati aveva inventato? «Come? Un libro proprio con lettere elettriche che luccicano al buio, una cosa stupefacente, un movimento di milioni, fonderie e stamperie in piena attività, legioni di meccanici addetti al lavoro, 700 mi pare di aver sentito». «Ecco, proprio come dicevo io», soggiunse l'altro e si fermò lì. Mi credeva parola per parola e non si lasciava sconcertare. Ne rimasi un po' deluso perché avevo sperato di stordirlo. Inventai ancora disperatamente qualche menzogna in un vero e proprio gioco d'azzardo e accennai misteriosamente che Appulati era stato per 10 anni ministro in Persia. «Avete un'idea che cosa voglia dire fare il ministro in Persia?» domandai. «Era più che essere re del nostro paese, quasi come dire un sultano. Sapeva che cosa fosse un sultano?» Ma Appulati se l'era cavata benissimo senza commettere un solo errore. E parlai di Ilayali, sua figlia, una fata, una principessa che aveva 300 schiave e dormiva su un letto di rose gialle, la più bella creatura che avessi mai visto. «Dio mi castighi se ho mai visto in vita mia una ragazza così bella!» davvero era tanto bella, osservò il vecchio con aria assente, tenendo gli occhi bassi. Se era bella, era magnifica, stupenda, soave, occhi come la seta, braccia come l'ambra, la sua occhiata era seducente come un bacio, e quando mi chiamava, quella voce mi scendeva nel cuore come uno zampillo divino. Perché non avrebbe dovuto essere così bella? Credeva forse che fosse una cassiera o un'impiegata dei pompieri? Era, per dirla schietta, una magnificenza celestiale, glielo garantivo io, una fiaba. Già, già, fece il vecchietto un po' allocchito. La sua calma mi annoiava. La mia stessa voce mi aveva messo le ali e discorrevo con molta serietà. Nella mente non mi era rimasto più nulla dei documenti rubati dall'archivio, del trattato con qualche potenza estera. Il pacchetto piatto era sulla panchina tra me e lui e ora non avevo nessunissima voglia di esaminarne il contenuto. Ero come ossessionato dal mio racconto. Visioni meravigliose mi passavano davanti agli occhi. Il sangue mi montava alla testa e sparavo balle a tutto andare. L'uomo si mosse e, alzandosi, mi domandò, per non troncare troppo bruscamente il colloquio: dicono che Hapulati possieda ricchezze immense, vero? Come mai quel vecchio cieco e antipatico osava pronunciare quel nome strano, il nome che avevo inventato io, quasi fosse un nome comune di quelli che si leggono sulle insegne delle botteghe? E non si impappinava mai, non si mangiava neanche una sillaba. Il nome gli era entrato nel cervello e vi aveva messo radici. Ne ero seccato. E in fondo incominciai a provare una certa collera contro quell'uomo che non si scomponeva mai, che non diffidava di nulla. Non lo so, risposi bruscamente. Non ne so proprio niente. Ricordatevi però che si chiama Johann Arend Hapulati, a giudicare dalle iniziali. Johann Arend Hapulati, ripeté l'altro, meravigliato della mia agitazione. Avreste dovuto vedere sua moglie, dissi infuriato. Una donna grassa così. Come? Non credete che sia stata molto grassa? Sì, ci credo, con un uomo simile. Il vecchio rispondeva placido e mansueto a ogni mia uscita e cercava le parole, quasi temesse di dire qualcosa che potesse irritarmi. Corpo di mille diavoli, credete forse che io stia qui a caricarvi di bugie? Gridai fuori di me. Voi forse non credete neanche che esista un uomo che si chiama Hapulati. Una simile cattiveria non l'ho ancora trovata in un vecchio come voi. Che diavolo vi prende? Magari avete pensato che io sia un poveraccio, con indosso l'abito della festa e senza un astuccio di sigarette in tasca. Un trattamento simile non mi è mai capitato, ve lo garantisco io, e non sono disposto a tollerarlo per Dio, né da voi né da nessun altro, e tanto basta. Il vecchio si era alzato, a bocca aperta, ascoltò il mio sfogo e, quando ebbi finito, prese il pacchettino e si allontanò quasi di corsa attraverso il parco coi suoi passettini da vecchio. Io restai seduto a guardare quelle spalle che si allontanavano e sembravano sempre più curve. Non so come fosse, ma ebbi l'impressione di non aver mai visto spalle più disoneste e viziose di quelle, e mi pentii di non aver ingiuriato quell'uomo prima che si allontanasse. Il giorno declinava, il sole calava, dagli alberi intorno veniva un leggero stormire di fronde, e le bambinaie raccolte in crocchio nella piazzetta dei giochi accanto all'altalena iniziavano ad avviarsi verso casa con le carrozzine. Ero molto calmo e mi sentivo bene. Placata a poco la mia eccitazione, incominciavo ad afflosciarmi, ad aver sonno. Avevo ingoiato troppo pane, ora ne sentivo gli effetti. Di ottimo umore mi appoggiai alla spalliera, chiusi gli occhi e sonnecchiai. Stavo per addormentarmi profondamente quando un custode del parco mi posò una mano sulla spalla e disse: «Non è permesso dormire qui». «Già», replicai e mi alzai. Subito dopo mi si riaffacciò alla mente tutta la mia miseria. Dovevo pur mettermi a fare qualche cosa. Nella ricerca di un posto non avevo fortuna. Le raccomandazioni di cui potevo disporre e che avevo sempre presentate erano troppo invecchiate e poi erano state scritte da persone troppo poco note. Non potevano servire. Oltre a ciò, i continui rifiuti durante l'estate mi avevano scoraggiato. In ogni caso, dovevo pagare la pigione. Dovevo trovare una via d'uscita. A tutto il resto avrei pensato dopo. Senza volere, mi ritrovai fra le mani la carta e la matita e scrissi inconsciamente in tutti gli angoli la data 1848. Se un pensiero travolgente mi trascinasse con sé e mi suggerisse le parole. Altre volte mi era capitato davvero e avevo già vissuto momenti uguali. Ero stato capace di scrivere a lungo, senza fatica, e per giunta avevo scritto cose bellissime. Me ne sto dunque seduto sulla panchina e scrivo dozzine di volte il numero 1848 per diritto e per traverso in tutti i modi possibili, aspettando che mi venga qualche idea presentabile. Uno sciame di pensieri sfuggenti mi sfarfalla intorno al capo. La sensazione che il giorno sta per tramontare mi mette di cattivo umore e mi rende sentimentale. L'autunno è arrivato e ha già cominciato a preparare il letargo del mondo. Le mosche e tutte le altre bestiole hanno già ricevuto il colpo di grazia. Sugli alberi e sulla terra la vita guizzante combatte, frusciando e strisciando senza posa, l'ultima battaglia. Non vuole perire. Tutti gli esseri dell'aria e della terra si agitano ancora una volta. Si tratta di vita o di morte. Ancora una volta sporgono la testa gialla dai licheni. Ancora una volta muovono le gambe, tastano l'aria con le lunghe antenne e crollano poi improvvisamente rovesciandosi col ventre in su. Ogni pianta ha preso un suo volto particolare sotto il soffio diafano e sottile dei primi freddi. Gli steli si rizzano pallidi verso il sole e le foglie cadute raschiano il terreno con il rumore sommesso di filugelli che si spostano. È tempo d'autunno, il carnevale della caducità. Il rosso delle rose si infiamma e sopra il colore sanguigno si spande una luce stranamente smorta. Io stesso mi sentivo come un verme in preda alla distruzione in quel mondo che si intorpidiva nel proprio sfacelo. Balzai in piedi, frustato dall'angoscia, e feci alcuni salti scomposti. No, gridai stringendo i pugni. Basta, bisogna finirla. E rimessomi a sedere, strinsi la matita. Bisognava incominciare seriamente un articolo. Era sciocco abbandonare la partita se dovevo ancora pagare la pigione. Lentamente i miei pensieri si raccolsero. Approfittai dell'occasione e scrissi piano e ponderatamente alcune pagine come introduzione a qualche cosa. Poteva essere l'inizio di varie cose, di una descrizione di viaggio, di un articolo politico, a piacere. In ogni caso, era un inizio eccellente. Poi mi diedi a cercare un argomento preciso da trattare. Una persona o una cosa era lo stesso, ma non riuscivo a trovare nulla. In quello sforzo sterile i miei pensieri si accavallarono di nuovo disordinatamente e sentivo che il cervello non mi dava retta e la testa si vuotava finché mi rimase sulle spalle vuota e leggera. Quel vuoto spalancato me lo sentivo in tutto il corpo, che era come scavato dalla testa ai piedi. Signore mio, Dio mio, esclamai nel mio dolore. Ripetei più volte l'invocazione e tacqui. Il vento stormiva tra gli alberi. Un temporale si stava preparando. Restai seduto ancora un po', fissando il manoscritto, poi lo ripiegai e me lo misi lentamente in tasca. Faceva fresco e io non avevo più il panciotto. Mi abbottonai la giubba fino al collo e ficcai le mani nelle tasche. Poi mi alzai e mi incamminai. Mi fosse riuscito ancora una volta, almeno questa volta. Già due volte la padrona di casa mi aveva chiesto con gli occhi di essere pagata e io avevo dovuto allontanarmi curvando le spalle con un saluto imbarazzato. Non potevo più farlo. Se quegli occhi mi guardavano un'altra volta, dovevo parlar chiaro e dar la disdetta. Così non si poteva andare avanti a lungo. Al margine del parco rividi il vecchietto che la mia follia aveva messo in fuga. Il mistico pacchetto era aperto accanto a lui sulla panchina, pieno di cose da mangiare che gli stava gustando. Mi venne subito la voglia di rivolgergli la parola e di chiedergli perdono e scusa del mio comportamento, ma la vista di quei cibi mi disgustò. Quelle vecchie dita che sembravano artigli rugosi erano affondate in modo ripugnante nei panini imbottiti e grassi. Mi sentii lo stomaco sconvolto e passai oltre, senza parlare. Egli non mi riconobbe. I suoi occhi mi fissarono duri come il corno e il suo viso era senza espressione. Andai avanti e per vecchia consuetudine mi fermai a ogni giornale che vedevo esposto per leggere le offerte di impiego nella piccola pubblicità. Per fortuna trovai un'offerta adatta a me. Un commerciante nel Grundlanslere cercava un contabile per qualche ora ogni sera, compenso da convenirsi. Presi nota dell'indirizzo e pregai tra me che Dio mi concedesse quel posto. Avrei preteso un compenso minore di qualunque altro. 50 centesimi erano troppi, forse bastavano 40. Per me era lo stesso. Arrivato a casa, trovai sul tavolo un biglietto della padrona che mi pregava di pagare la pigione anticipata o di andarmene appena possibile. Non me ne avessi a male, le circostanze la costringevano ad agire così. Cordialmente, signora Günneschen. Scrissi al mercante Christi nel Grönlandslere numero 31 per concorrere al posto e portai la lettera nella cassetta all'angolo della strada. Poi risalii nella mia stanza, sedetti sulla sedia a dondolo e mi abbandonai ai miei pensieri. Si faceva sempre più buio e diventava sempre più difficile stare alzati fino a tardi. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.